Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Juncker non fa sconti a Barroso. Finisce sotto indagine l'ex presidente della Commissione europea. Verrà sottoposta a indagine etica e soprattutto non godrà più dei privilegi da tappeto rosso. È arrivata alla fine l'attesa risposta del presidente della Commissione europea Juncker sul caso di José Manuel Barroso, l'ex presidente dell'esecutivo UE, passato ad occuparsi di Brexit per Goldman Sachs, una decisione che aveva scatenato negli scorsi mesi forti polemiche. Dopo gli esecutivi di Francia e Germania era sceso in campo anche il mediatore europeo Emily O'Reilly, cui competono le indagini sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie. L'Ombudsman europeo aveva rivolto all'esecutivo Juncker la richiesta di valutare un cambiamento al codice di condotta dei propri commissari in modo da impedire nuovi casi Barroso, e a chiedere una punizione esemplare erano stati alcuni funzionari europei che a luglio hanno lanciato una petizione per chiedere ai vertici delle istituzioni europee di bloccare la pensione e gli altri benefit che spettano all'ex premier portoghese. E ora il presidente della Commissione prende posizione con una decisione che non ha precedenti. Barroso sarà ricevuto a Bruxelles non come ex presidente ma come rappresentante di interessi e verrà dunque sottoposto alle regole di tutti gli altri lobbisti. C'è un chiaro dovere, spiega Juncker, stabilito dall'articolo 245 del trattato, di rispettare un comportamento integro e discreto dopo la fine dell'incarico. Barroso dunque sarà sottoposto ad un'indagine per verificare se onora queste disposizioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa pronta a voltare pagina anche nei fatti per gli aiuti ai migranti. Passa alla fase operativa il cosiddetto Migration Compact proposto dall'Italia. Domani dovrebbe arrivare l'ok della Commissione europea per i finanziamenti, che si aggirerebbero attorno ai 30 miliardi di euro per aiuti all'esterno dell'Unione, soprattutto in Africa. Conferma di una politica che cambia, come dice anche l'alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini, che oggi presiede il vertice informale dei ministri degli affari esteri. I will discuss with the ministers the external investment plan that the Commission is going to adopt tomorrow in Strasbourg, as also a part of bringing in to the development fondi, come sentite, dice Federica Mogherini, che potranno andare anche al settore privato e saranno destinati allo sviluppo nei paesi d'origine dei migranti, soprattutto africani, con progetti più mirati rispetto a quanto avvenuto fino ad ora. Primo appuntamento, quello di oggi, di una settimana con molti temi in agenda. Sarà una settimana decisiva per il futuro dell'Unione Europea dopo lo scossone della Brexit. Mercoledì il presidente della Commissione Juncker tiene il discorso sullo stato dell'Unione di fronte all'Europarlamento di Strasburgo. Il numero uno dell'esecutivo comunitario dovrà illustrare lo stato di salute dell'Unione e la rotta che Bruxelles intende seguire nei prossimi mesi. Venerdì e sabato la palla passerà poi ai leader con la riunione informale a 27 a Bratislava, senza la Gran Bretagna, per discutere del futuro europeo. Sono sei, incluso l'addio di Londra, i grandi dossier per costruire una nuova Unione e voltare pagina. Si parte con un'interpretazione più flessibile del patto di stabilità, tema caro all'Italia, per approdare alle misure di rilancio del PIL, con un'estensione del Fondo di investimenti europeo dopo il 2018. Le istituzioni comunitarie puntano anche a completare il puzzle dell'unione bancaria, tentando di superare lo scoglio della Germania che si oppone alla garanzia unica sui depositi. Non solo, se la costituzione di un esercito unico europeo è destinata a rimanere un tabù, gli sforzi saranno indirizzati verso la creazione di una difesa comune europea. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora per il momento ci fermiamo qui. Da Anna Migliorati ancora un buon pomeriggio. L'Europa, come sempre, vi aspetta alle 21 con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.